perciò mi metto qua a cantare queste puttanate e mi metto qua a dire quello che mi passa per la testa. Non so mai cosa so deep.